fossi io, viene lento di vagare, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa trasmissione la dedico a una collega che ho incontrato questa mattina nel baretto qui al piano sotto Radio 24 a Roma, un collega molto carina che aveva al collo un ciondolo che rappresentava una cozza, e a lei dedico questa puntata dedicata al matrimonio. Maggio è il mese delle spose, ho amiche ultra trentenni che lì palpitano come giovani colombe, dalla sarta a farsi l'abito bianco, a misurarsi il tulle, a fare l'elenco degli ospiti, a guardare le bomboniere, a fare tutto quello che da generazioni hanno sempre fatto le giovani spose, neospose, aspiranti spose, in attesa del giorno più bello. Devo dire che con lo scemare della passione matrimoniale, con la possibilità di rimettere continuamente in dubbio, di avere comunque un'ipoteca sul futuro dell'amore eterno, non è scemata e non è diminuita la passione per la cerimonia matrimoniale. Il matrimonio comunque, al di là dell'aspetto privato, personale, di vincolo religioso, etico, civile, è anche una grande occasione di ostentazione sociale. Sappiamo che a certe latitudini del nostro paese generazioni e generazioni si pagano debiti e si indebitano con strozzini semplicemente per fare bella figura con il matrimonio della loro vita, dei figlioli e delle figliole. Sposare bene già è un buon segno, soprattutto nelle piccole società in cui il mostrare il potere d'acquisto è simbolo di grande prestigio. Noi immaginavamo che nella società urbanizzata e contemporanea certi aspetti avessero perso consistenza, invece no, al contrario, hanno molta più consistenza, soltanto che la ritualità, la liturgia matrimoniale è andata via via mischiandosi, inquinandosi con quella che è l'idea costruttiva di un grande format televisivo. Quindi organizzare un matrimonio non significa più dare una grande ostentazione di ricchezza, di opulenza, millanta portate, tacchini, maiali infilzati, musicanti, orchestre, fiori, abiti sontuosi, carrozze, cavalli, preti organizzati con paramenti dorati. Non semplicemente questo, ma trovare delle rispetto alla regola, delle reinterpretazioni. Insomma, il matrimonio fusion sembra che sia la moda del momento. A Molfetta hanno fatto un'iniziativa molto particolare, hanno un format Matri Movie, dove il filmino ripreso durante i festeggiamenti, il matrimonio di una coppia, è stato poi riproiettato in una sala cinematografica locale, con la partecipazione nuovamente di tutti gli invitati. Io sono convinto che uno dei sintomi più appariscenti dell'estasi burino, del desiderio burino dell'estasi, è quello di organizzarsi un matrimonio strano, un matrimonio particolare. Ecco, voi avete testimonianze, segnalazioni da farmi di matrimoni fuori dalla regola in linea col desiderio di stupire. Stupire come? Organizzando cose strane, cose singolari, andando a pescare stranissime contaminazioni tra immaginari, tra religioni, tra culti particolarissimi o rappresentazioni estetiche che non appartengono assolutamente alla nostra civilizzazione, ma la cui contaminazione vorrebbe dare un segno di distinzione. 800 24 00 24, oggi parliamo degli strani matrimoni. A Savoca, in provincia di Messina, dove è stato girato parzialmente il film Il Padrino, l'estate scorsa una coppia, lei inglese, avvocato, e lui italo-americano, un broker della borsa di New York, hanno voluto un matrimonio in perfetto stile Padrino, con tanto di donne vestite un po' come appunto il padrino, e gli uomini con il pistolone, con il borsalino, e in più il sindaco che li ha sposati si è prestato a questa farsa. I giornali locali ne hanno riportato e nessuno si è scandalizzato. Cioè, proprio è veramente un inno alla mafiosità. Cioè, io quando ho letto una cosa di questo genere sono rimasta esterrefatta. 800 24 00 24, spero chi sta a casa, chi sta in macchina, chi ha la possibilità di chiamare telefonicamente, non voglia essere da meno degli utenti che su Facebook già mi stanno dando le prime mirabolanti segnalazioni. Elena ha visto la torta nuziale che scende dal soffitto. Giovanna Napolitano ha detto: ne ho una fresca fresca, Gianluca, alla quale mi sono beatamente rifiutata di andare. Pubblicazione in comune con mega festa con tanto di orchestra e concerto. Poi, tra quasi 2 mesi, matrimonio vero e proprio, con 3 giorni di festa non stop. Ovviamente doppio regalo, doppia bomboniera, doppio stress. E naturalmente questa, naturalmente, lei dice che questa cosa viene fatta a Napoli. Pensare che io, sacrilega, ho fatto le pubblicazioni in gran segreto, prendendo come testimoni i primi 2 ignari che varcavano le porte del comune, tutto condito da un buon caffè della macchinetta del corridoio. Questo è il matrimonio radical chic, volutamente mesto, ostentatamente austero, per far vedere che sei di quelli che non guardano le convenzioni. Poi naturalmente molto spesso il viaggio di nozze viene fatto comunque a Sharm el Sheikh, alle Seychelles, nei soliti posti dell'apoteosi dei piaceri nuziali burini. Carmen, non farmici pensare, le foto delle mie nozze non le riesco nemmeno a guardare, ho lasciato l'album a casa di mia madre. Rimozione matrimoniale. Roberta, visto con i miei occhi la cravatta dello sposo tagliata con una motosega. Ah, questo trovo meraviglioso, vorrei avere ancora particolari su questa invenzione che non trovo affatto burina, ma trovo veramente geniale. Anche a me piacerebbe poter usare la motosega sulla cravatta di un matrimonio. Scegli con noi la location ideale per il ricevimento del tuo matrimonio. Ecco le nostre offerte. Il castello. Per un matrimonio intriso di magia e di sogno. Mura e torri merlate, ponti levatoi, imponenti portoni, scale. Ambienti che pullulano di storia e leggende, ravvivati dalle fiamme di grandi cammini in pietra. Per un matrimonio da fiaba. Il loft. Per coppie anticonformiste. Uno spazio insolito ricavato da vecchi edifici industriali, collocati nel centro della città, in un unico grande ambiente essenziale e minimalista, se non esistenzialista. La cascina rustica. Per gli amanti della campagna, per un matrimonio informale agreste, stile picnic, con la presenza di diversi barbecue per la cottura della carne alla brace, del pesce e delle verdure grigliate. Ma attenti agli insetti. La discoteca. Per coppie molto giovani, scatenate, provate la nostra super discoteca. L'ambiente ideale per sposi che vogliono davvero divertirsi ballando, più che intrattenere gli ospiti. Ma prima, accertatevi che gli invitati siano giovani. Continuano le segnalazioni di matrimoni agghiaccianti su Facebook. Sabrina ha visto i 2 sposi... uscire da sottoterra insieme a una torta gigantesca. Dice che ovviamente dopo 2 anni si sono separati e tutto era condito da fuochi d'artificio. Allora vediamo. Elena da Bari. E la preparazione per la riuscita dell'evento sono l'unica cosa importante, fra colombe e macchine d'epoca in affitto. Ho visto e so, però spieghi meglio. Riscrive Giovanna, che si è arrabbiata perché ho preso in giro alludendo a un suo viaggio di nozze a Burin coronamento del matrimonio radical chic. Dice no, che invece non è stata a Sharm, ma è stata in macchina, in tenda, in giro per l'Italia. Ecco, naturalmente corona perfettamente il matrimonio da raccontare ai propri amichetti. Ma non volermene, Giovanna, ma questa mattina li va di prenderti in giro. Dunque, su questa follia radical matrimoniale, naturalmente si è costruito un vero giro di business, nuove figure professionali e nuove persone che hanno come vocazione professionale, immagino fortunata, l'organizzazione di matrimoni, tanto che Franco Angeli ha pubblicato un libro, Professione Wedding Planner, l'organizzatrice di matrimoni. Questo libro è stato scritto da Simona Malcovati e Chiara Parrini, che abbiamo al telefono. Chi vuole parlare prima? Simona, mi piace più il nome. Buongiorno. Sì, salve. Ma lei perché ce l'avevo scritta per prima? Ecco, avete scritto un libro, ma voi lo fate di mestiere, l'organizzatore di matrimonio, o semplicemente avete occhieggiato e spiato? No, noi lo facciamo come professione, entrambe per scelta, avevamo un lavoro diciamo a Milano, eravamo in azienda, ma poi abbiamo pensato di realizzare questo sogno, di metterci in proprio e di avviare questa attività, quindi seriamente ogni giorno ci confrontiamo con questo mercato. Ma la vostra piazza è soltanto piazza milanese o vi espandete in tutto il territorio nazionale? Dunque, noi abbiamo diverse sedi su tutto il territorio nazionale, principalmente io e Chiara siamo su Pavia Milano, però ormai ci sono sedi dal Piemonte fino alla Puglia. Ecco, come può venire in mente a un essere umano di affidare l'organizzazione del matrimonio a una terza persona, per risparmiare tempo, per non avere responsabilità, per la lista dei parenti scomodi? Cioè, come fate a compilare voi l'elenco delle zie da chiamare e da non chiamare se non conoscete tutte le fattispecie, gli incroci familiari, gli odi, le invidie, i conti da pagare? Dunque, sicuramente la coppia che si rivolge a noi è una coppia che non ha tempo, lavorano entrambi a tempo pieno e hanno bisogno quindi di delegare a qualcuno l'organizzazione del matrimonio. Vogliono idee un po' originali, nuove, per rendere il loro matrimonio diverso da quello appunto magari dei parenti o degli amici. Per quanto riguarda il discorso appunto parenti scomodi, sicuramente la figura dell'organizzatore aiuta anche in questo senso, perché... Cioè, c'è una blacklist dei parenti da segare oppure no? No, generalmente non c'è una blacklist, ma sicuramente si arginano le ingerenze di suocere e suoceri che a volte appunto vengono messi a tacere proprio perché c'è la figura del wedding planner. Ah, quindi ecco, è una figura super partes che evita di averci a che fare con le nonne, con le suocere, con chi vuole mettere lingua. In attesa di sentire anche l'altra autrice, però sento Piero da Roma. Piero da Roma, buongiorno. Buongiorno. Lei da 40 anni fa il venditore di abiti da sposo. Dice, potrei scriverne di cose, ma quali sono queste cose che ha visto? Ma guardi, intanto è il quadro familiare che si presenta al momento dell'acquisto dell'abito per lo sposo. Quindi la madre, la suocera, il fratello che ci capisce, veramente ci dovrebbe fare un quadro. E cioè poi, lo sposo fa già da subito la parte del cretino, quello che sta lì e fa il manichino e non può nemmeno esprimere un parere. Non sa assolutamente nulla di cosa capiterà. E questo gruppo di persone comincia ad ammazzarsi l'uno contro l'altro, perché chi vuole una cosa bianca e vuole una cosa nera, chi vede la pieghetta sulla spalla che non c'è, oppure che c'è, per carità. E poi alla fine arrivano a spendere delle cifre incredibili per un oggetto che metteranno, se no, 2 ore, 3 ore, giusto per le fotografie o per il film. Poi guardi, nelle mie campagne io ho un'infanzia in ambiente rurale, l'abito da sposo era importante, perché era quello che poi si metteva anche nella bara, era un abito, ci si faceva nella vita, era il bel vestito nero di lana pesante, i contadini lo mettevano la domenica per andare a messa con la giacca sulle spalle per non rovinarla, era quello con cui le incassettavano, quindi era un'impresa unica, ma oggi penso che ognuno di noi ha più vestiti di quelli che avrà umanamente tempo di mettere, quindi perché è così fatale la scelta dell'abito da sposa? Non c'era nulla di pesante nero, semmai sete, fiocchetti, merletti, pizzi, scarpe lucide color beige, azzurro, rosse, calze di seta bianche. Sì, ma scusi, ma lei si occupa di matrimoni gay o di matrimoni? Perché... No, per me i matrimoni sono tutti uguali. Non ho no, perché uno sposo che si mette i pizzi, i merletti e le calze, guarda, non vorrei qua scatenare, non mi sembra... No. Sono molto antiquato. Io a farsi il giro di qualche chiesa romana a luglio a 40 gradi all'ombra, vedrai dei personaggi che escono da queste chiese con dei cappotti lunghi fino ai piedi di seta damascata, e insomma cose di questo genere che poi costano veramente tanti soldi e non credo che vadano bene per essere incassati, come ha detto lei prima. Comunque vince sempre il burino da questo punto di vista, se lei mi dice questo, il buon classico vestito austero che uno si mette per sposarsi, ma può mettersi anche in altre occasioni, non usa più, deve essere l'abito unico anche per l'uomo, come l'abito bianco si metteva nel baule e rimaneva lì e si apriva con la lacrima e nostalgia quando mai lo sfattume fisico non permetteva più di metterlo. L'abito grigio scuro o blu sembrava quasi offendere il portafoglio della famiglia che arrivava, cioè bisogna andare sul peggio del peggio per fare contenti tutti. Perché e sia poi... unico, va bene, grazie Piero. Manuel da Roma. Da Roma. Ho capito, sì. Buongiorno. Sta a Roma, mi fa piacere. Manuel. Sì, ciao, buongiorno. Volevo raccontare un attimo la mia esperienza, il mio matrimonio, che è un matrimonio italo-tedesco. Lei è il tedesco, immagino. Sì. No, ci siamo, mia moglie è burattinaia e abbiamo un a Roma che fa i burattini, e intorno al nostro matrimonio è stato sempre il nocciolo la vita con i burattini, e quindi ci siamo fatto un matrimonio fai da te, non con il wedding planner, abbiamo fatto tutto da solo. Cioè lei aveva dei bei fili attaccati alle mani, alle gambe, alla testa per fare sì. E questo sarebbero i marinetti, non le burattini. Però comunque stiamo sempre parlando di testi legno. Perché non voglio dire, perché se lei doveva essere mosso come un burattino, doveva avere un braccio infilato nella sua schiena, perché se è così che si muovono i burattini. Prego. Infatti. Pronto? No, diciamo lo scopo nostro era di fare una cosa particolare, che non costi tanti soldi e che sia un piacevole evento per tutti quanti, che aggira molto su di noi. Abbiamo anche chiesto ai invitati, che erano anche tanti dalla Germania, di preparare qualcosa con i burattini che faccia parte della festa. Quindi noi sul laghetto di Bracciano, su un piccolo terreno, abbiamo montato il teatrino e ognuno doveva esserdirsi liberamente. Era bellissimo, perché sembra quasi la festa di Mangiafuoco, poi alla fine i burattini potevano essere usati per attizzare il fuoco. Grazie, ma volevo concludere con Chiara Parrini, l'altra autrice del libro dedicato all'organizzatrice di matrimoni. Ecco, da quello che lei ha sentito, ci trova qualcosa di vicino alla sua esperienza milanese, per far capire che tutta Italia è paese da questo punto di vista? Beh, intanto buongiorno, vi saluto. Ma molto carina l'esperienza di Manuel, appunto, che si è organizzato il matrimonio da solo e ispirandosi a questo tema, che poi è un tema evidentemente di vita per lui. No, per quanto ci riguarda, nella nostra esperienza, devo dire che gli sposi che si rivolgono a noi poi scelgono sempre comunque il grande classico. E quindi sono d'accordo con il signore di Roma, la sposa sceglie ancora il grande, l'abito bianco, il classico abito bianco, se si può ancora con uno strascico, con tanto di velo. E, mentre ma si usa ancora il beige vergine ma non troppo per le signore di una certa età? No, direi no, vanno proprio un po' più quasi sul bianco ottico, bianco crema, insomma, un bianco candido. Sporco. Addirittura anche le spose che si sposano in comune vogliono utilizzare l'abito bianco, magari in una forma un pochino più ridotta, tipo un tailleur, però ecco, il bianco va ancora per la maggiore. Ci può fare, proprio visto che questa è una radio che ha molto, diciamo, la vocazione economica, alla fine quanto mediamente devono cacciare fuori per un matrimonio queste persone? Allora, diciamo che si parte da più o meno intorno ai 20.000 euro per un matrimonio organizzato nella sua interezza, insomma, facendo tutto quello che si può fare, e a volte anche compresi fuochi d'artificio. Chi vuole risparmiare? Ovviamente, invece, chi volesse fare le cose in grande? Ah, lì non c'è un limite al budget. Senza tetto. Tenga conto che, per esempio, la nostra coppia di sposi ha investito 30.000 euro solo nel viaggio di nozze, quindi è evidente che dipende molto dal portafoglio delle persone. No, mi fa piacere, questo concretizza il fatto che stiamo passando una feroce crisi economica e ci sono gravi problemi di difficoltà mediamente in tutte le famiglie italiane. 800 24 00 24, questa mattina mi state dando ampia soddisfazione. Le segnalazioni di matrimoni balzani, devo dire, vanno oltre la mia peggiore immaginazione. Allora, Mauro mi dice che ha visto una sposa portata con una carrucola dallo sposo, che era magro magro, secco come un chiodo, in cima a una salita, e tirava sulla sposa con la carrucola. Poi, vediamo un po', gente che noleggia per arrivare in chiesa con la targa rumena scaduta una Porsche, per pagare meno con la targa scaduta. Poi, lo sposo che taglia un ceppo di legno con una seghetta, e c'è un doppio senso orrendo di facezia fra uomini, dicendo che l'ultima volta lui fa quel tipo di operazione. Poi dunque, Raffaella si vergogna di ammettere che lei era la sposa e quindi è andata a comprare l'abito dicendo che doveva fare la testimone, quindi un abito normale, elegante, non da sposa. Poi Flavia, per la serie dei matrimoni finto dimessi, è andata con lo sposo a sposarsi con l'autobus numero 68 e poi è andata a Parigi in viaggio di nozze, ancora guardano le foto. A me mettono più tristezza quelli che fanno il matrimonio ostentatamente povero piuttosto che i burini, che almeno sono burini, poverini, non c'è nulla da fare, anzi è un'apoteosi della loro fantasia creativa. A me amo la creatività di qualunque tipo sia. E la più bella in assoluto me l'aveva scritta prima, ecco, Paola mi scrive una cosa meravigliosa. Si spengono le luci nel giardino dell'hotel. Quando le luci si riaccendono, vediamo con raccapriccio la sposa in piscina in groppa a un delfino. Consigli 1. Capelli per lei. Quando arriva il gran giorno, non bisogna dimenticare di delegare la mamma, la sorella o un'amica a munirsi di un beauty, con le cose strettamente necessarie che possono servire dopo la cerimonia. Non devono assolutamente mancare la lacca, un pettine a coda e qualche mollettina da appuntare nel caso in cui, nel togliere il velo, si possa sciogliere qualche ciocca. Avrete un'acconciatura perfetta per un giorno perfetto. Mi scrive Flavia, dice che in Germania, dove telefona lei, tutti i festini matrimoniali finiscono con lo sposo che sega un ceppo. Evidentemente fa parte di un rituale di quelle parti, non lo so. Nella mia terra rustica e selvaggia, fortemente inquinata da spirito fescennino e da profondo senso religioso e da ancestri lontani precristiani, ancora usa il rituale del piatto alla sposa. Io stesso fui cacciato da un nobile matrimonio familiare perché offrì a mia cugina, coperto da un panno, il classico piatto. Non ci trovo nulla di male. Penso tutti abbiano capito di cosa si tratta, è una sorta di falloforia vegetal culinaria che si offre alla sposa e lei lo scoperchia, tutti battono le mani e tutti sono contenti. 2. Accessori per lui. Anche lo sposo deve sentirsi a tutti gli effetti il protagonista nel giorno più bello della sua vita. Ma attenzione agli accessori. Sì all'orologio, se è da polso, meglio se è in oro bianco. Sì anche ai gemelli da polso. Sì, anche ad un sobrio e discreto fermacravatta, ma deve essere in oro bianco e con la classica perla. No a orecchini, braccialetti, collane e a tutti i tipi di anelli ritenuti out, a meno che non si tratti di un anello con lo stemma che identifichi un'appartenenza a un nobile casato. Altrimenti lasciate perdere. Sia Paolo Corleone che Fabrizio Intonti che Gloria Guerrera che stanno in regia mi dicono in interfonico che non hanno capito la storia del piatto. Non posso spiegarla alla radio, ma chi ha una generazione leggermente precedente alla vostra lo sa sicuramente. È un retaggio di un antico rito propiziatorio fatto al ruber custos dei frutteti, dei campi coltivati, che era il dio Priapo. Si costruisce con degli ortaggi e dei frutti della terra morfologicamente affini, una riproduzione di una parte anatomica che deve ispirare fertilità in quel nascente atto d'amore, si copre con un panno e si offre alla sposa. È tutto qua, è una cosa semplicissima. Antonio, provincia da Foggia. Pronto, Antonio di Foggia. Sì, buongiorno, eccomi qua. Scusi, ma devo spiegare cos'è il piatto al matrimonio? Dalle vostre parti si usa? Sì. Vede, non è che me lo sto inventando io, no, non è una cosa, non viene preso male. No, altro che. C'è una specializzazione, uno va in cucina, almeno in Umbria si fa così, e dice prepariamo il piatto, certo. Dall'ultima sguattera allo chef sanno tutti esattamente cosa si fa, smetto lì e lo fanno. Non certo. C'è, anzi, un matrimonio senza piatto non è un matrimonio benedetto poi dalla fertilità. Beh, andiamo avanti. Niente, il mio di matrimonio è stato strano per gli altri, per noi normale, non abbiamo voluto assolutamente che l'evento principe fosse la tavola, quindi è passata in secondo piano, anche se rigorosamente vegetariana. Abbiamo affittato un villaggio turistico fuori stagione, quindi a bassissimo prezzo, ed io ho organizzato tutto, dagli chef fino alla sala, tutto, dove ci siamo intrattenuti con amici che venendo da fuori, dalla Lombardia, sono arrivati anche il giorno prima e quindi hanno sostato lì già la notte prima, il giorno del matrimonio, e la cosa per noi importantissima era che tutti avessero uno spazio dove potersi adagiare serenamente, insomma, non costretti in un unico spazio che è quella classica delle sale da ricevimento dove... Anche perché Antonio, lei mi insegna che non c'è luogo più malandrino per incontri e nuovi amori che un grande ricevimento di matrimonio. Certo. Si arriva lì, si conoscono sempre persone, c'è l'euforia, quindi da un matrimonio ne nascono sempre tanti altri, quindi lei ha creato un ambiente ancora più favorevole a questa cosa. Sì, infatti il piacere nostro è stato quello di vedere che ognuno ha ritagliato il proprio tempo, il proprio spazio nella giornata che noi abbiamo offerto. Qualcuno era in piscina, qualcuno era in spiaggia, qualcuno ci dava una mano ad addobbare il gazebo dove ci saremmo sposati, matrimonio civile, laico, qualcuno si intratteneva con gli amici, insomma tutti hanno trovato uno spazio che era più vicino alla... Però la sua è stata una scelta di qualità indubbiamente, ha pensato a rendere felici i suoi invitati, prima sì, cosa, non a fare... quindi non ha nulla a che fare con la meraviglia dell'orribile che stiamo noi qui confezionando. Grazie Andrea da Roma, ha lavorato come aiutante fotografo e ne ha viste molte, compreso l'elicottero per fare le foto dall'alto, pronto? Sì, salve, mi sente? Sì. Sì, salve. Tra le varie cose che ho visto in 5 anni da aiutante fotografo c'è stata anche quella dell'atterraggio di un elicottero dentro una villa affittata per il pranzo. E chi c'era nell'elicottero? La sposa? Gli sposi. Perché avevano fatto le foto esterne, cioè i matrimoni normalmente hanno tutta un'organizzazione a fasi, si va prima di mattina presto dallo sposo, poi dalla sposa, gli esterni, le foto in chiesa, dopodiché poi vanno al ristorante. In quell'occasione degli sposi affittarono addirittura un elicottero per atterrare dentro il ristorante. Oppure potrei citarle la carrozza che viene da fuori Roma per portare la sposa al matrimonio. Ci sono anche altri piccoli fenomeni come il cosiddetto cerinaro, quello che vende i cartoncini fuori dalla... Ah, questo non lo so. Non i cartoncini... No, questa non la conoscevo, no. Mi trova sprovvisto di questa informazione. Una foto dello sposo con la foto di un invitato. Normalmente si fotografano sempre i bambini perché poi i parenti comprano più fotografie. Ah, come si faceva nel lungomare di Riccione negli anni 70? Sì, fanno la foto per strada. Almeno a Roma viene chiamata in gergo cerinaro, il cerino si vende. Si fa la foto e si paga pure per avere la foto. Beh sì, intorno agli 8-10 euro, poi dipende dal fotografo, insomma. E per avere la foto con gli sposi. Sì, sì, sì. Quella della carrozza già gliel'ho detta, la Ferrari, chiaramente, le moto. Oppure... Le moto, ecco, un altro particolare che mi manca. Cosa ci si fa con le moto? Ma normalmente anziché prendere, non so, la classica moto, la macchina d'epoca come la Rolls Royce, oppure magari una macchina bella, pregiata, prestata da qualche amico o parente, quella volta a volte prendono anche delle moto, non so, l'Harley Davidson, quelle marche molto ricercate, il sidecar, quindi gli sposi che vanno al ristorante con il sidecar anziché con la macchina dietro strombazzante. Perfetto, devo sentire però adesso l'altra faccia della medaglia, Claudio da Ferrara. Claudio, lei ha speso pochissimo. Pronto? Il matrimonio micragnoso, vediamo come si fa con 400 euro riuscirsi a sposare con il fornellino da campo. Come è riuscito a sposarsi con così pochi soldi? Ma diciamo la cosa è stata semplice, ma diciamo bisogna dare importanza a certi momenti e a certe cose nella vita. Quindi volutamente austera. Come dice? Volutamente austera, in un fienile si è sposato. Sì, allora il matrimonio per se stesso in comune non costa nulla, assolutamente nulla. Il pranzo l'abbiamo fatto noi, addirittura con un fornellino da campo, io e mia moglie, e abbiamo fatto la festa sotto un fienile in campagna come si faceva circa 50 anni fa. E la prima notte dei nozze nel pagliaio? Diciamo la prima notte di nozze nel pagliaio come si faceva 200 anni fa. Allora, noi ci siamo sposati, premetto, la domenica mattina. Io ho lavorato fino al giovedì, mia moglie è andata a lavorare il sabato mattino. Questo per dirle, diciamo, la semplicità. A volte nella vita capitano anche queste cose. Grazie mille. Sì, prego, che stiamo chiudendo. Una cosa importante la dico. Voglio dire, siamo molto felici e siamo... diciamo contentissimi di questa cosa. Non riesco veramente a raccontarvi le peripezie matrimoniali che si riescono ad inventare, immaginare per dare un senso di unicità alla giornata in cui un uomo e una donna di fronte al mondo, alla società, per qualcuno anche di fronte a Dio, decidono di passare la vita assieme, o per sempre, o per un periodo cospicuo, o per un periodo breve. Io immaginavo, ma nella mia pochezza di immaginazione, che la relativizzazione della cerimonia matrimoniale, il fatto che oggi quando le persone si sposano sanno che non potrebbe anche non essere l'unica volta, la prima volta o la sola volta, o che hanno altre chance a disposizione, avrebbe depotenziato il senso della cerimonia. No, invece è tutt'altro. Viene fantasticamente ampliato il senso che il matrimonio è un grande show. E lo show naturalmente deve sempre rinnovarsi nelle sue parti costitutive, deve essere come ogni volta una grande prima teatrale di un nuovo fantastico spettacolo. E in questo naturalmente ci sono delle persone che aiutano molto, mettono la loro creatività, come se fossero degli autori televisivi, teatrali, cinematografici, a disposizione di chi voglia creare una giornata che faccia veramente scalpore, che abbia un impatto, che abbia un'audience esagerata nei loro invitati. Una di queste persone è Noemi Oddoni. Buongiorno, signora Noemi. Sì, buongiorno, buongiorno. Cosa fa lei nella vita? Io sono una wedding planner, quindi organizziamo eventi e matrimoni. Abbiamo proposti, diciamo, differenti, come già è stato capito dal tono iniziale, diciamo, della trasmissione, proposte che chiaramente sono diverse dagli altri. Io sto vedendo nel suo sito noemiweddings.com cose che gli umani non potrebbero mai immaginare. Il matrimonio, diciamo, celtico-druidico. Sì. Ecco, ma come fa a pensare queste cose? Si documenta, fa delle ricerche di mercato? Esatto, c'è tutto dietro un'analisi di mercato che parte sicuramente dagli Stati Uniti e che poi io ho riproposto, perché siamo l'unica agenzia in Italia a proporre il matrimonio gotico, il matrimonio celtico e altri tipi di matrimonio che nessuno propone. Non può con questa superficialità dire soltanto il matrimonio gotico. Spieghi in cosa consiste il matrimonio gotico, con la sposa vestita di nero. Certo, allora, è una tendenza in realtà di questi ultimi anni, quindi non è solo un qualcosa di strano, ma è in realtà una vera e propria tendenza. Quindi anche gli stilisti stanno cercando di proporre abiti o con qualcosa di nero o comunque completamente in nero. Molte spose chiedono di avere il nero nei loro accessori, come nelle partecipazioni nella mise en place. Sì, non entriamo nei particolari intimi, che immagino che sarà tutto nero naturalmente, non potrebbe essere altrimenti. Quindi una sposa, quasi una sposa di Dracula, vampiressa, completamente vestita di nero, come una principessa delle tenebre. Sì, e il marito? Diciamo che questo è un aspetto, diciamo, più profondo, e che se noi prendiamo gli ultimi numeri delle più importanti riviste sul matrimonio, c'è proprio la sposa vestita da sposa più o meno alla Dracula, diciamo così, è proprio documentabile da... Ma chiedono anche i denti posticci oppure non fa parte delle forniture che voi mettete a disposizione? No, non sono forniture che noi mettiamo, però per chi vuole si può anche pensare. Senta, invece il matrimonio celtico? Una cosa seria, purtroppo. Il matrimonio celtico? Matrimonio celtico? Il matrimonio celtico è un matrimonio che possiamo dire essere simbolico, ovvero è un rito che gli antichi celti facevano già da loro, alla presenza proprio di un druido, e anche questa è una cosa che viene spesso richiesta per chi non vuole fare il classico matrimonio, con quindi presenza di tutti gli elementi celtici che c'erano in passato, come ad esempio il fuoco sacro e altri elementi. Sì, immagino la posizione geografica in cui il matrimonio celtico andrà molto in Italia, ci sarà un grande desiderio di fare matrimoni che ricordino comunque questo tipo di immaginario. Beh, ognuno è libero di sposarsi come vuole, però devo sentire adesso un altro ideatore di matrimoni singolari, che è Enrico Pronzati. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Lei invece cosa si è inventato? Io invece mi sono inventato la wedding dance. Ci spieghi cosa sia? Praticamente nel momento in cui ci sono gli sposi che stanno affrontando questa giornata, cioè il momento poi del ballo, che può essere il ballo classico, oppure noi abbiamo aiutato gli sposi a inventarsi anche delle coreografie fatti tra loro due oppure coinvolgendo anche gli amici e i parenti che partecipano. Sembra quei format televisivi, quello che fa la Cuccarini ultimamente, o Ballando con le Stelle. Ma voi insegnate a ballare, perché non è detto che tutti... Io vedo sulla sua scheda che in suo ultimo matrimonio il fratello della sposa vuole rifare Grease, quindi immagino che c'è un bel impegno per insegnare a minimamente non fare proprio una figura dall'occhi, no? E quella è la parte poi più divertente, perché ci sono persone che non hanno mai ballato con persone che invece hanno già fatto qualcosa. La nostra abilità sta proprio nel cercare di far uscire da chi è già un ballerino questa parte danzereccia, e poi invece per chi non ha mai ballato comunque cercare di muoversi all'interno della coreografia, che poi diventa... Ma quanto tempo richiede per la preparazione di un matrimonio ballando? Immagino ci vorrà un training insieme... che ne so, gli esercizi spirituali in parrocchia o le prove che si fanno con il maestro di cerimonie, questi devono andare anche a ballare, faticosissimo. Neanche tanto, nel senso che noi abbiamo visto dalle ultime coppie, ad esempio per imparare il classico valzer bastano all'incirca 7 ore. In 7 ore si riesce già a ballare un valzer per fare una gran bella figura durante il matrimonio. Va bene, noi siamo arrivati alla fine di questa fantomatica e meravigliosa puntata in cui abbiamo soltanto lambito quelli che sono gli usi matrimoniali balzani. Abbiamo scoperto che in realtà chi pensa che un matrimonio con la sposa in bianco, in chiesa, con gli invitati, con i confetti, paggetti, valletti, lo strascico, sia il massimo dell'apoteosi matrimoniale, ha fatto i conti senza il matrimonio celtico, il matrimonio gotico e tutte queste meravigliose invenzioni per dare, nella omologazione di un grande format televisivo, unicità al giorno matrimoniale. A lunedì. Email melog@radio24.it. Melog va in replica questa sera alle 22:00.